Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Eclettica, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, Giulio Caperdoni in vostra compagnia, che segue Edo Rossi, che abbiamo appena salutato, che ci ha appena salutati, e poi sarà seguita invece da Marco Garavelli. Tutto questo dal lunedì al venerdì, altrimenti disponibile in podcasting. Vi ricordo anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com da utilizzare nel caso appunto vogliate dettagli ulteriori rispetto alle informazioni che vi do in onda, e anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. Quando mi chiedono di scrivere, mi stupisco. Lo scrivere, infatti, è un'arte che mi era ignota sia come passatempo che come professione. Si può dire che, ad eccezione dei compiti di scuola di quando ero ragazzo e del lavoro d'ufficio pertinente alla mia attività, non ho mai scritto nulla nella maniera più assoluta. Il più strano ancora è che non ricordo di aver mai messo nero su bianco, neppure per redigere una lettera o un messaggio, per più di un quarto di secolo, il tempo da me trascorso in questa vita. Invero, lo scrivere, come il parlare, è segno di vita sociale, manifestazione dei legami che uniscono gli esseri umani in questo mondo. Ma io, con tutto ciò, non ho nulla a che vedere. Non sfrondiamo forse le piante togliendo via la parte contorta dei loro rami e i germogli che non servono? Perché allora risparmiamo coloro che non sono fatti per questa vita? Perché ci mostriamo tolleranti o indifferenti, costringendoli ad esistere, imponendo loro la vita? Per questo essi vagano sulla terra estranei, impauriti. Per questo talvolta sono portati a danneggiare se stessi follemente e a calpestare vittime innocenti sotto i loro piedi incespicanti. Questo era l'incipit de Il Miraggio, di Najib Mahfouz. Tutti i respiri che ho sono per te, tutti i respiri che hai. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena lentamente, con un ritmo costante. Dove vai? Cosa fai? Con chi stai parlando? Cosa stai bevendo? Ascoltami. Cerca di evitare le tue distrazioni. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena lentamente, con un ritmo costante. Thank you.

veramente bella, troppo bella, oserei dire. La canzone che ha aperto Eclettica di quest'oggi, ovvero sia la nuova di Paolo Benvenu, La Schiena, come vi dissi la volta scorsa, visto che apre il suo nuovo album. Io non sono andato avanti nell'ascoltare quel disco, non so com'è, perché ho messo subito in repeat e sono andato avanti a ascoltare e riascoltare La Schiena. Poi ci sarà il tempo per scoprire anche le altre tracce, ma da quello che ho sentito in giro, perché io davvero ancora non le ho sentite le altre, da quello che ho sentito in giro è un gran bel disco e di questo sono molto molto contento per Paolo Benvenu. Abbiamo poi ascoltato gli Helvetia da Seattle che ci hanno fatto sentire Blasting Carolina. Prima di passare al nuovo artista che vi voglio far conoscere, però vi ricordo del concerto che si terrà domani al Music Drome a Milano, data unica per l'Italia, domani per chi ascolta in diretta radiofonica martedì 11 di marzo, quindi il domani è mercoledì 12 di marzo. Unica data per i Band of Horses, per i quali c'è un concorso a premi non di biglietti ma di dischi, di quello che è il nuovo disco dei Band of Horses, del quale ieri ho anche estratto un brano. Ecco, i più veloci a scrivere a giulio@radiorockfm.com, indicando ovviamente anche il loro indirizzo di casa, riceveranno direttamente nella casella di posta, quella vera, non quella elettronica, una copia del disco. Passiamo ora al Kent, la regione inglese da cui proviene Kid Harpoon, artista che fino ad ora ha inciso solo singoli o EP. Un primo singolo, poi un primo EP che è intitolato The First EP, che è stato pubblicato nell'ottobre 2007, ed ora è uscito un secondo EP intitolato The Second EP. Kid Harpoon, che ci ascoltiamo con la canzone intitolata Riverside. To head for land and saw the oyster in my hand, spit the pearl into the sea. I paddled frantically back down to where I left her on the ground, where I put her gently off to sleep. Oh, oh! Before they flow, just like the summer needs to have snow. We need light, we need dark. Before you take off, you must come down. Come down, come down, come down, come down, come down, come down, down, down, down, down, down by the river. There is life, then there is none. We need moisture combined with the sun so we can tap dance, create light into the river. We climb in at night. L'ufficiale di polizia lanciò uno sguardo triste all'interminabile galleria su cui si aprivano le aule del terzo e del quarto anno. Su tutto l'istituto Taufi qui regnava una calma profonda. Si diresse verso una terza, diede qualche colpetto alla porta per annunciarsi, entrò, si avvicinò al professore e gli mormorò qualche parola nell'orecchio. Il professore guardò uno studente della seconda fila e pronunciò ad alta voce il suo nome, Hasanain Kamilali. Questo era l'incipit di Principio e fine di Najib Mahfouz. At night, 'cause he ain't that tight like you and I. We're up to blame, and this is too much proved, that with devotion's visage and pious action, we do sugar o'er the devil himself. What's that mean? Spare the rod. Twist and turn, and there's no light anywhere.